La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon lunedì, quanti ne abbiamo? 5 di ottobre, sono le 16:31 primi e 14 secondi, in diretta qui dai studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto in diretta al podcast, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per proporre argomenti, temi, critiche, osservazioni o per proporvi direttamente come protagonisti della trasmissione con la vostra storia. No, oggi non tornerò a parlare del canone Rai nella bolletta elettrica, perché rinvio tutti gli ascoltatori a sentire il podcast stamattina della trasmissione in cui sono tornato dalle 8:15 alle 9 la mattina. Ogni mattina sarà così con Alessandro Milan, attenti a noi due, ne abbiamo parlato lì, quindi trovate in podcast cosa ne penso, sono contrarissimo. Invece parliamo di un altro argomento e immediatamente ve lo spiego per consentire di telefonare all'800240024 le opinioni al 349-238-6666 con gli sms. In particolare la mia domanda a voi oggi è questa. Mi rivolgo soprattutto a piccoli imprenditori, medi imprenditori privati, soprattutto piccoli, nonché anche ad artigiani e commercianti, come ovvio. E la mia domanda è migliorato il ritmo dei pagamenti tra privati, visto che stiamo uscendo dalla crisi? O siete in difficoltà perché i privati, i grandi privati, quelli più grandi di voi, i clienti più grandi di voi, continuano a non pagarvi? Ve lo chiedo perché voi sapete che in realtà sulla grande territoria andata avanti per anni dell'arretrato del debito commerciale ai fornitori da parte della pubblica amministrazione, a un certo punto col governo Renzi è sceso un velo, come se il problema fosse risolto. Poi ci pensa la Banca d'Italia a ricordare, per i pochi che leggono ovviamente in dettaglio i suoi rapporti, che non è così, perché l'arretrato resta di 70 miliardi. Poi scopriamo, grazie alla Corte dei Conti, che ci sono regioni che utilizzano i fondi che erano stati loro trasferiti per pagare i debiti commerciali, li hanno utilizzati per altra spesa corrente. E vi ricordo che per questo è in arrivo un decreto del governo bloccato dal Quirinale esattamente una settimana fa. Vedremo che cosa succederà. Ma la domanda è, mica ci sono solo le pubbliche amministrazioni che non pagano le imprese, perché abbiamo imparato nella crisi che anche tra privati, e magari proprio i grandi privati che hanno meno problemi sia nell'accesso al credito con le banche, sono quelli che ne hanno approfittato, allungando i tempi di pagamento e quindi accrescendo la sofferenza dei loro piccoli fornitori. Allora, la mia domanda è, spiegateci se le cose sono cambiate in meglio o in peggio, o sono rimaste uguali, e chiamateci all'800240024. Lo spunto per questa trasmissione nasce due articoli pubblicati oggi, uno sul Corriere della Sera nel fascicolo generale, l'altro nell'approfondimento economico del Corriere della Sera, in cui si parla di un'azienda che è una, insomma, delle meraviglie italiane di questi ultimi anni di crisi. È un'azienda che si chiama ADS, e ADS sta per Assembly Data System, quindi è specializzata nell'impiantistica di rete, in particolare quella delle telecomunicazioni, è specializzata in ICT, quindi in sistemi di innovativi di software ad alto valore aggiunto. E questa impresa, che è cresciuta tantissimo, è un'impresa fondata 30 anni fa da quattro elettricisti a Pomezia, fuori Roma, ma in questi anni ha avuto un ritmo di crescita del fatturato, del giro d'affari dei dipendenti, che ha del clamoroso, perché ha superato per ricavi 100 milioni, ha 1300 dipendenti, più altre centinaia che sono in arrivo, e la notizia appunto è che si prepara a quotarsi, però si quota nel Nasdaq americano, con tanto di giustificazioni. In Italia noi continuiamo ad avere problemi sia per il credito, ma sia soprattutto perché i nostri grandi clienti, è ovvio che è un'azienda che concentra molto del suo fatturato con alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni italiane, i nostri clienti continuano a pagarci con tempi troppo lunghi. Allora, da una parte, nella prima parte della trasmissione ci facciamo raccontare com'è questa storia, e dall'altra poi proponiamo una controiniziativa esattamente su questo, che si è inventata una territoriale di Confindustria, proprio per dire non possiamo andare avanti così. Noi non possiamo protestare contro lo Stato da una parte che non ci paga e poi essere noi magari i grandi di Confindustria, i primi a non pagare. Allora, intanto partiamo dalla storia di questa azienda di Pomezia, ed è con noi l'amministratore delegato, appunto, della ADS, Pietro Biscu, che ringrazio di dedicarci questo tempo. Buon pomeriggio. Grazie a voi e buonasera. Allora, i tempi di questa quotazione quali saranno? I tempi, noi abbiamo appena avviato questo procedimento, quindi pensiamo di arrivare alla quotazione almeno in 3 anni. In 3 anni. Certo è che quando si pensa a un fatturato come il vostro e a un numero di dipendenti come i vostri, tutto uno immagina, tranne che siate ancora nel novero di chi riscontra pagamenti come fornitore delle aziende che sono i loro clienti e che vi danno le gare, che voi vincete con i vostri ingegneri e con i vostri progetti. Ma è davvero così? Purtroppo sì, i termini di pagamento sono molto lunghi, soprattutto per aziende come ABS che ha il personale che vende competenza, quindi vende persone, consulenti. E come diceva giustamente lei, facciamo consulenza ad altissimo valore aggiunto, quindi anche persone con un'esperienza, una competenza costruita negli anni e che hanno un costo. E come ben sappiamo, dipendenti, contributi vanno pagati regolarmente. Da parte vostra, i vostri dipendenti vanno pagati. Da parte nostra, per un'azienda che sta investendo molto sull'Italia. E noi siamo fieri di questo, vogliamo continuare a costruire un qualcosa di importante in Italia, perché noi sponsorizziamo moltissimo il fatto che l'azienda è 100% italiana, non ci sono né banche né fondi né investitori. Però è molto faticoso, perché chiaramente questo crea una sofferenza di liquidità che frena la crescita e anche appunto gli investimenti, perché è difficile con l'autofinanziamento, non ricevendo poi supporto anche dalle banche, con pagamenti che creano sofferenza, poter continuare la crescita e anche la sostenibilità appunto dell'azienda, come noi tantissime altre realtà sane soffrono in un mercato che è molto competitivo e difficile. Aspetti che rispondo a un ascoltatore che mi chiede per SMS: ah, quindi abbandonano l'Italia? No, quotarsi a Nasdaq non significa abbandonare il niente di niente, di dove è l'impresa, di chi sono i suoi dipendenti e così via, è vero Biscu? Noi ci siamo resi conto, noi siamo passati da 30 persone circa del 2009 alle 1500 attuali, inserendo tantissimi giovani dalle università, dagli istituti tecnici. Abbiamo creato un'accademia che si chiama DS Lab, dove appunto partono dei corsi di formazione da centri come, ne cito uno che è per noi veramente un riferimento, che è l'ELIS. Però se prendi 500 giovani italiani dall'ELIS che si trova a Casalbruciato, questo non fa notizia. Se assumi 500 ingegneri da Palo Alto, da Cupertino, quindi dalla California, fa un po' più notizia. In Italia vieni considerato questa però è colpa nostra, colpa mia, cioè colpa dei giornalisti, cioè colpa dai media, questo sono io il primo a dirlo, cioè questa... Io torno da un lungo viaggio negli Stati Uniti ed ho riscontrato un grosso interesse sull'azienda, anche perché l'italiano è apprezzato la nostra competenza, la nostra capacità di risolvere i problemi e anche la determinazione. E questo mi fa augurare che quindi quando poi arriverà la quotazione sarà una quotazione con multipli molto interessanti sull'EBIT che avete, questo è il mio augurio. Ma detto questo, da quello che lei ci ha spiegato, cioè in particolare la difficoltà sia nell'accesso al credito per un'azienda, ripeto, stiamo parlando di 100 milioni di fatturato, 1300 dipendenti, e nei tempi di pagamento delle grandi aziende delle telecomunicazioni, non solo delle telecomunicazioni ma innanzitutto di quelle che operano in Italia, dipende dal fatto che voi in realtà, come ci ha spiegato naturalmente in maniera tecnicamente chiara perché capiscano gli ascoltatori, perché poi vendete consulenza, cioè vendete in realtà degli intangible, come si dice, cioè non è che vendete apparati, macchine, così. No, ecco. Allora, detto questo, però, posso chiederle una cosa, cioè se dipende da questo, Poi è ovvio che voi progettate e realizzate anche sistemi dove c'è software, l'hardware e così via, ma dico, se dipende anche da questo, cioè il fatto che la lentezza dei pagamenti e le difficoltà dell'accesso al credito dipendono proprio dal fatto di avere capitale umano ad alto valore aggiunto, molto formato, molto esperto, di cui parlano chiari successi nelle vostre gare che vincete, non è un po' il contrario di quello che dovrebbe avvenire? Cioè, il sistema del credito italiano, da una parte, e chi deve pagare, se voi avete lavorato, non dovrebbe in realtà aver capito che noi, per accrescere il valore aggiunto alla produttività, dovremmo valorizzare nel rischio di credito e nella valutazione del rischio di un impiego dato a voi bancario, e dall'altra parte, velocizzare proprio il pagamento che premia, rispetto a macchine, benefici e così via, il valore aggiunto del capitale umano. È uno dei problemi fondamentali per cui abbiamo perso 37 punti di produttività rispetto ai tedeschi dall'inizio del 2000 alla fine del 2015. È un paradosso quello che le dico io? Sbaglio o c'è qualcosa di giusto? No, è correttissimo. È correttissimo, purtroppo ci sono tanti fattori che influiscono nella sofferenza degli aziende. Uno è sicuramente il discorso dei pagamenti, che sono troppo lunghi, soprattutto per aziende. Ma quando che lei dice vendono... troppo lunghi, cioè nella media voi a quanto vi pagano? 150-180 giorni. Cacchio, un'azienda come voi. Media. Vogliamo anche 200 in molti casi. Io mi lamento, l'altro... ma ho una micro società e anch'io aspetto bene. Però dico, vabbè, io sono l'ultimo con ruota del carro, ma un'azienda come voi 200 giorni? Mamma mia. La media è 650 giorni. Un altro problema che per noi è molto, crea delle criticità in azienda, è anche il discorso che non vengono più riconosciute le competenze. E c'è un appiattimento, il valore delle persone non viene riconosciuto e quindi ci sono, diciamo, dei listini abbastanza flat. E una persona, un super esperto, viene pagato come un profilo junior. E naturalmente se uno vuole partecipare con qualche chance alla gara, o è così oppure niente. Assolutamente, perché c'è molta concorrenza, soprattutto nelle aziende private dove non vengono richieste particolari per appunto essere invitati a delle gare, particolari requisiti, cosa invece che avviene nella pubblica amministrazione, cosa che poi ha spinto noi a fare l'acquisizione di Nextira One, che è uno spin-off di Lucent, delle certificazioni e delle referenze che ci permettono oggi di presentare l'azienda e gareggiare in un mercato che è più selettivo. Un altro problema è anche l'offshoring. Molte aziende purtroppo continuano a portare dei servizi che erano storicamente erogati dall'Italia in paesi esteri. Questo lo fanno, se posso fare una domanda, alla ricerca semplicemente dell'abbattimento di costo rispetto alle risorse impiegate lì e a quanto costano in Italia per uno fiscale per il diverso livello di reddito, o perché ci sono anche davvero poi potenziali tecnologici aggiuntivi in altri paesi, nel vostro settore? Assolutamente. No. Sono strategie corporate, perché il costo oggi del personale italiano è paragonabile a quello della Romania. E noi l'abbiamo dimostrato con The Business Case, quindi il costo è identico, anzi posso dire che il personale in Italia costa anche meno, perché il personale rumeno o comunque dell'est Europa, una volta che ha acquisito le competenze, si rivende in paesi come l'Italia, la Francia e l'Inghilterra, quindi crea un turnover di servizi al cliente finale che chiaramente abbassano la qualità dei servizi, mentre in Italia questo non accade. Allora, io intanto ringrazio Pietro Bisco, amministratore delegato di ADS, per averci spiegato che anche per aziende di successo italiano, di questo ritmo di crescita, di questi assunti in Italia in questi anni, di acquisizione sul mercato italiano, di fior di clienti per cui vince le gare, come vedete esiste il problema della lentezza dei pagamenti e dell'accesso al credito, quindi altro che è tutto risolto in Italia. E per questo io faccio gli auguri all'azienda perché abbia successo sul mercato del capitale internazionale e americano. Adesso andiamo all'informazione stradale e poi abbiamo con noi appunto il vicepresidente di Assolombarda che spiega questa iniziativa che sta avendo sempre più iscritti, per così dire, aderenti, per dare una risposta esattamente al tema che ci ha sollevato l'amministratore delegato di un'azienda di grande successo, che dice: qua non ci pagano, cari amici, non ci pagano e soprattutto non ci riconoscono le competenze, cioè vogliono che noi gliele diamo e gli facciamo quello per cui vinciamo la gara, però ci dicono no, vi paghiamo molto meno, cioè un paese che continua a disconoscere il valore aggiunto del capitale umano. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:46 primi 59 secondi. Abbiamo sentito l'amministratore delegato di ADS, un'azienda italiana molto cresciuta, è diventata una grande azienda con il successo del software, dell'architettura di sistema ICT che vende a grandi clienti in Italia, che prova sul mercato americano a quotarsi perché dice: noi continuiamo ad avere difficoltà con le banche e continuiamo ad avere difficoltà nei tempi di pagamento. Allora, Carlo Bonomi, che è vicepresidente di Assolombarda, quindi la più grande territoriale di Confindustria in Italia, è responsabile del credito, finanza e fisco, lo abbiamo chiamato e lo ringraziamo di essere con noi al telefono perché un anno e mezzo fa Assolombarda, resasi conto del fatto che i privati, i grandi privati, non possono solo lamentarsi dello Stato che non paga, ma devono innanzitutto garantire ai loro fornitori una regolarità di pagamento, si è inventata un'iniziativa. Buon pomeriggio Bonomi, che iniziativa vi siete inventati? Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori. L'iniziativa trae origine, proprio come diceva lei, dal fatto che va bene lamentarsi che non paga la pubblica amministrazione, ma guardiamo anche in casa nostra cosa succede. E quello che abbiamo visto è che in un periodo di crisi e di stretta di credito, sulla filiera e quindi sulle piccole e medie imprese veniva scaricato questa tensione finanziaria, per cui rallentamento dei pagamenti. Prendendo spunto quello che è stato realizzato in Inghilterra, Prompt Payment Code, abbiamo realizzato e abbiamo proposto alle nostre associati il Codice Italiano Pagamenti Responsabili. Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili è un'iniziativa volontaria dove le aziende aderiscono. E il principio sostanzialmente è questo: dimmi cosa fai, ma fai quello che dici. Cioè, noi non entriamo a dirimere quelli che sono i tempi di pagamento tra i privati, quindi lasciamo la contrattazione delle parti, pur auspicando che rimangano tra i 60 e i 90 giorni massimo, ma che poi le imprese facciano quello che dicono nei contratti, perché uno dei problemi che hanno le piccole e medie imprese, oltre al ritardo di pagamento, è che questo ritardo non è mai in linea con quello che sono nei contratti, per cui mi dici che mi paghi a 120 giorni, mi va benissimo, però poi mi devi pagare. Bravissimo, è quello, perché poi ogni azienda riesce a mettersi a posto sul suo circolante. E a questo codice volontario etico della regolarità dei pagamenti, quanti hanno aderito, di che tipo, insomma, che quanti pagamenti più o meno garantisce questo protocollo etico volontario? Ad oggi gli iscritti al CPR sono 239, si tratta di aziende delle più varie dimensioni e localizzazioni geografiche che coinvolge una filiera di 200.000 fornitori per 81 miliardi di euro l'anno. Ecco, è una cifra molto importante. Peraltro noi l'abbiamo aperta non solo alle aziende aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria, ma a tutte le aziende, ma hanno aderito anche banche, e la cosa che ci ha fatto più piacere, che voglio rimarcare, è che ha aderito anche Regione Lombardia. Cioè anche questo, pezzi del pubblico, insomma. Ecco, sì, questo è molto importante. Questo è molto importante perché se il pubblico inizia a rendersi conto che i pagamenti sono una leva strategica di competitività per le nostre imprese, questo diventa veramente un fattore molto importante e di educazione economica. Io le devo fare una domanda da parte dei nostri ascoltatori, però, che evidentemente alcuni di loro sanno che uno dei pilastri, per così dire, della presentabilità in società delle imprese è diventata la corporate social responsibility, e alcuni mi dicono sì, però questa è tutta fuffa, la si dichiara per essere, apparire etici, poi in realtà non lo si fa. Allora la questione è: se uno aderisce al codice dei pagamenti pronti di Assolombarda e poi in realtà dice di farlo ma si comporta diversamente, che succede? Noi abbiamo un comitato formato dall'Università Bocconi, dalla LUIS e da Confindustria e da Assolombarda, che verifica nei casi di contenzioso se effettivamente ci sono le ragioni di essere, perché magari il pagamento è stato ritardato perché la merce non è conforme, certo, manca una documentazione, ma nel caso in cui venisse accertato che l'azienda non lo rispetta, viene tolto il marchio, che è un danno reputazionale, ah, certo, molto forte. Molto forte, molto forte. Pensate, in Gran Bretagna è stata un'iniziativa pubblica, anni fa, di un governo che ha detto, ragazzi, i privati, quindi il governo è intervenuto, a me sembra un principio di civiltà. Viva pezzi del sistema di rappresentanza delle imprese che fanno cose di questo genere. Sentiamo un po' di nostri ascoltatori che testimonianza danno nella loro vita di piccoli imprenditori professionisti. Fabrizio da Genova, Fabrizio, prego. Buongiorno a lei, signori ascoltatori. Allora, io oltre a fare l'imprenditore mi occupo anche di imprese edili in Italia. Sì, aia, io quindi stiamo parlando di un settore disastrato. Ahimè. Bravissimo, oltre un milione di posti persi, quindi non conto più i suicidi. Allora, io ho fatto un sondaggio, l'ho finito circa una settimana fa, dove ho chiamato circa 560 aziende che ho reperito chiaramente su internet. Allora, proprio a proposito di pagamenti, perché si parla di pubblica, della parte pubblica, ma non si parla mai, come giustamente, del privato. Allora, do due dati. Sì. Il 60% riceve i pagamenti a 120-150 giorni lavori terminati. L'8% a 30-60, un 18% a 120, e c'è una percentuale che i soldi non li vede mai. Quindi diciamo che per essere considerati un paese in regola si salva solo l'8%? Esattamente. Porcaccia di una miseria nera, scusi il mio commento, ma altro che, se qui c'è da ripercorrere proprio i principi basilari. L'8%? Mamma mia. Io ho fatto un sondaggio su 560 imprese. Non sono poche, a dire la verità, quindi è questo che mi fa riflettere molto. Grazie della sua testimonianza e dei suoi numeri. Sentiamo Alfredo. Alfredo. Ah, buongiorno, grazie per la risposta. Stia a sentire, Oscar, io ho un grosso problema. Io, come tante altre persone come me, che sono state emigrate in paesi stranieri, no, ovviamente, ci troviamo a dover aderire obbligatoriamente, per forza di cose, alla volontari, alla budgetina. Alla volontà di sposa, sì. Non parliamo, esatto, di questo, ma dica in fretta, allora, E quindi? Allora, ci troviamo sullo stesso livello, trattati sullo stesso livello di quelli che hanno guadagnati soldi in Italia e portati all'estero, tipo Svizzera, tipo Liechtenstein, tipo Monte Carlo e via dicendo. Ci troviamo penalizzati in questa maniera, cioè trattati di tutta un'erba, è stato fatto un fascio. Perché lei era un emigrante e ha regolarmente lavorato lì, quindi si tratta per lei di regolarizzare le rivenienze, cioè quanto ha ricavato lavorando lì, ho capito bene? Sì, io Si è consultato bene con un commercialista? Sì, mi sono consultato, non c'è santo che tenga, cioè il nostro Parlamento, il nostro Stato si comporta da ladro. Allora, guardi Alfredo, quello che le posso dire è che io faccio una puntata ad hoc sui casi della volontà di escluso tra qualche giorno. Per favore mi scriva alla versione di Oscar, oppure a oggianino@yahoo.com, perché la facciamo intervenire proprio nel giorno in cui parliamo di questo e di tanti altri casi che non sono ancora risolti nel testo della volontà di escluso, siccome c'è la protrazione dei termini fino a fine novembre. Quindi le do appuntamento su questo. Bonomi, ha sentito cosa ci diceva l'imprenditore edile delle percentuali riscontrate in 560 aziende delle costruzioni, i tempi? Siamo ancora molto indietro, Bonomi. Sì, devo dire che siamo molto indietro. Io prima parlavo appunto di cultura e senso economico, se non civico. Noi non possiamo più permetterci questo, il sistema creditizio non ce lo consente più. E credo che Asso Lombarda ha dato un segnale molto forte a tutto il sistema economico. Sarebbe bello, come lei accennava, che anche il governo però fosse una parte importante di questo processo. In Inghilterra, come diceva giustamente lei, il ministro Fallon ha detto: io non dirò chi aderisce al codice, io dirò chi non aderisce. Altra civiltà, posso dire. Assolutamente. Sarebbe bello che anche il ministro dello sviluppo economico in Italia diventasse uno sponsor di questo progetto e dicesse le aziende che non aderiscono. Vabbè, alla prossima assemblea chiedeteglielo se viene ad ascoltarvi, perché la mia opinione è che aver fatto sparire dal tavolo pubblico il tema della regolarizzazione dei pagamenti, dopo che era stato uno dei punti in cima all'agenda per anni, quando il problema non è affatto risolto, lo dice Banca d'Italia, è una delle tante stranezze di questo gioco delle tre carte sui dati pubblici che viviamo ogni giorno. Grazie anche a Bonomi, grazie a chi ci ha ascoltato. Continuate con la 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milan e alle 16:30 su versione di Oscar.